ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Verso le 4:30 si levò il sole. Si alzò un vento fresco che mi scompigliò i capelli. Il cielo madreperlaceo si tinse di arancio e di rosso fuoco. Per la prima volta assistevo a un'alba alpina. Solo Lince mi sedeva accanto e, come me, fissava la luce. Gli costava un grosso sforzo non abbaiare gioiosamente. Me ne accorgevo dal guizzare delle orecchie, dai movimenti ondeggianti che gli percorrevano la muscolatura del dorso. All'improvviso fu giorno. Mi alzai e iniziai la discesa a valle. Era una valle allungata, ricoperta da una fitta vegetazione. Col cannocchiale non vedevo altro che boschi. Una catena montuosa che si ergeva sul lato opposto mi impediva la vista. Fu una delusione, perché avevo sperato di poter vedere almeno un paese. Allora mi resi conto che se cercavo uno spazio aperto, dovevo proseguire il cammino attraverso pini nani. Dall'altro lato si trovava un'alpe e da lì avrei potuto godere un panorama più esteso, ma non potevo raggiungere sia l'alpe che la valle. E così decisi per quest'ultima. Mi pareva più importante. Forse nutrivo ancora la folle speranza che laggiù non avrei trovato la parete. Temo fosse così, altrimenti mi sarei risparmiata quella strada. Mi trovavo ora nella riserva adiacente, la quale, a quanto ricordavo, era stata affittata a un ricco straniero che ci veniva solo una volta l'anno, quando i cervi andavano in amore. Forse questo spiegava le cattive condizioni della strada. Ovunque si vedevano i segni delle piene primaverili. Nella riserva di Ugo quei danni venivano riparati subito. In alcuni tratti la strada pareva quasi il greto d'un torrente. Qui non esisteva una gola. Ai due lati del ruscello si ergevano falde coperte di boschi. Nell'insieme questa valle aveva un aspetto più ridente della mia. Scrivo la mia valle. Il nuovo proprietario, se esiste, non si è ancora fatto vivo. Se la strada non fosse stata tanto dissestata, avrei considerato quella gita come una semplice passeggiata. Più mi avvicinavo al fondo valle, più cresceva la mia prudenza. Allungai l'alpenstock davanti a me e badai che Lince mi camminasse al fianco. Il cane, del resto, non sembrava affatto tormentato da brutti presentimenti o ricordi, e mi trotterellava allegramente accanto. Mi trovavo ancora nel bosco quando con l'alpenstock urtai la parete. Fui molto delusa. Tutto ciò che vidi fu il bosco e un pezzetto di strada. Qui la parete era meno vicina alle prime case che dall'altra parte. Non si riusciva a vedere nemmeno il grande chalet di caccia costruito appena 2 anni prima e che si diceva contenesse ogni lusso possibile. Tutto a un tratto mi sentii molto stanca, quasi esausta. Il pensiero del lungo cammino quasi mi buttò a terra. Tornai lentamente indietro per un tratto, fino al capanno di un tagliaboschi che non avevo nemmeno notato. Si trovava in una piccola conca addossata alla montagna e l'ingresso era completamente ostruito dalle ortiche. Nel capanno non trovai nulla eccetto una bacinella di latta e un pezzo di lardo ammuffito e rosicchiato dai topi. Sedetti al tavolo grezzo e tirai fuori le mie provviste. Lince era andato a bere al ruscello. Attraverso l'uscio aperto riuscivo a vederlo e ciò mi tranquillizzò un poco. Bevvi il tè dal termos e mangiai una specie di crostata di riso, dandone un pezzetto anche al cane. Il silenzio e il sole che arroventava il tetto mi invogliavano a dormire. Temevo però le pulci nei pagliericci dei letti. Inoltre, un sonno breve avrebbe solo accresciuto la mia stanchezza. Era meglio resistere a quel desiderio. Rimisi dunque tutto nello zaino e abbandonai il capanno. Il buon umore della notte e del mattino era svanito. I piedi mi dolevano negli scarponi pesanti. Il sole mi bruciava la testa e perfino Lince sembrava stanco e non cercò di distrarmi. La salita non era ripida, solo molto lunga e monotona. Ma forse mi pareva tanto monotona solo a causa della mia depressione. Proseguii incespicando senza badare ai dintorni e abbandonandomi a cupi pensieri. Ora, le valli che potevo raggiungere senza assentarmi per diversi giorni le avevo dunque esplorate. Potevo ancora salire fino all'Alpe e da lì dare un'occhiata alla zona attorno, ma non potevo osare addentrarmi oltre nel lungo massiccio montuoso. Naturalmente, se laggiù non ci fosse la parete, mi troverebbero. Ma sì, dovevo ammetterlo, avrebbero dovuto trovarmi da tempo. Potevo starmene tranquillamente a casa ad aspettare. Eppure continuavo a sentirmi spinta a fare di mia iniziativa qualcosa contro quell'incertezza. Ero invece costretta a non far nulla e ad aspettare. Una condizione che ho sempre detestato particolarmente. Troppo spesso e troppo a lungo avevo atteso persone e avvenimenti che non si erano mai presentati, oppure con tale ritardo da non significare più nulla. Durante il lungo cammino di ritorno, ripensai alla mia vita di prima e la trovai insoddisfacente sotto tutti gli aspetti. Avevo realizzato poco di quello che avevo voluto e tutto ciò che avevo realizzato non lo avevo voluto più. È probabile che ai miei simili sia accaduto lo stesso. Proprio di questo, quando ancora ci parlavamo, non abbiamo mai parlato. Non credo che avrò ancora occasione di discuterne con altri. Devo dunque limitarmi a delle supposizioni. Allora, durante il ritorno nella mia valle, non mi era ancora chiaro che la mia vita di prima era bruscamente finita. Cioè, lo sapevo benissimo, ma solo con la testa, e quindi non ci credevo. Solo quando la nozione di una cosa si spande lentamente in tutto il corpo si sa veramente. So anche che un giorno dovrò morire come ogni altra creatura, ma le mie mani, i miei piedi, le mie viscere non lo sanno ancora. E per questo la morte mi appare tanto irreale. Da quel giorno di giugno è trascorso del tempo e io lentamente incomincio a capire che non potrò mai più tornare indietro. Verso l'una raggiunsi il sentiero che passa attraverso i pini nani e mi riposai su un sasso. Il bosco fumava sotto il sole di mezzogiorno e ondate di profumo caldo salivano verso di me dai pini. Solo allora mi accorsi che i rododendri erano in fiore. Si snodavano lungo i pendii simili a una fascia rossa. Il silenzio era molto più fondo che durante la notte di luna, come se il bosco giacesse paralizzato nel sonno sotto il sole giallo. Un uccello rapace tracciò i suoi cerchi lassù nell'azzurro. L'ince dormiva, le orecchie percorse da un leggero tremito, e la grande quiete scese su di me come una campana. Desiderai potermi fermare lì per sempre, nel calore, nella luce, seduta col cane ai miei piedi e l'uccello volteggiante sopra di me. Da tempo avevo smesso di pensare, come se le mie preoccupazioni e i miei ricordi non avessero più nulla in comune con me. Ripresi il cammino con profondo rimpianto e lungo il percorso, molto lentamente, tornai a trasformarmi nell'unico essere estraneo a quel luogo. Un essere umano che nutriva pensieri confusi, spezzava le frasche con le sue scarpe pesanti e praticava il sanguinario mestiere della caccia. Più tardi, quando raggiunsi a monte la capanna dei cacciatori, ero tornata a essere completamente la persona di prima, desiderosa di trovare nella capanna qualcosa di utilizzabile. Ma un leggero rimpianto rimase in me per ore. Ricordo quella gita con grande precisione, forse perché fu la prima e perché svetta come una cima sui lunghi mesi di monotona fatica quotidiana. Da allora, del resto, non ho più percorso quel sentiero. Ne avevo sempre l'intenzione, ma non fu più possibile. E senza lince non mi azzardo a intraprendere lunghe escursioni. Non siederò mai più nel sole di mezzogiorno, sopra i rododendri, ad ascoltare il grande silenzio. La chiave della capanna stava appesa a un chiodo sotto una scandola staccata e non mi fu difficile trovarla. Mi accinsi subito a perlustrare l'interno. Naturalmente era molto più piccola dello chalet di caccia e consisteva solo in una piccola cucina e in una camera da letto. Trovai un pezzo di tela da vela, due cuscini duri come pietre e un paio di coperte. Di queste ultime cose non avevo bisogno. La tela da vela, tuttavia, era impermeabile e la presi con me. Vestiti non ne trovai. Nella cucina, in un piccolo stipo sopra il fornello, c'erano farina, strutto, fette biscottate, tè, sale, uova in polvere e un sacchetto di prugne secche, probabilmente usate dal guardacaccia come rimedio universale, perché ricordo che ne masticava in continuazione. Inoltre, nel cassetto del tavolo trovai un mazzo di tarocchi bisunti. Conosco quel gioco solo per averlo visto giocare, ma quelle figure mi piacquero e così le presi. In seguito con quelle carte inventai un nuovo gioco, un gioco adatto ad una donna sola. Ho trascorso molte sere ad allineare quei tarocchi. Le figure erano diventate talmente familiari come se le conoscessi da un'eternità. Diedi loro dei nomi, preferendone alcune ad altre. I miei rapporti con quei tarocchi si fecero personali, quanto quelli con i personaggi di un romanzo di Dickens letto già 20 volte. Oggi non gioco più a quel gioco. Una delle carte l'ha divorata Tigre, il figlio della gatta, e un'altra è finita nel mastello dell'acqua, spazzata via dalle orecchie di Lince. Non vorrei dover ricordare continuamente Lince e Tigre, ma nella casa esiste qualcosa che non me li ricordi? Nella capanna trovai anche una vecchia sveglia, rivelatasi poi molto utile. Veramente possedevo la piccola sveglia da viaggio e l'orologio da polso. Ma la sveglia da viaggio mi cadde di mano poco dopo e l'orologio da polso non segnava mai l'ora esatta. Oggi ho solo la vecchia sveglia trovata nella capanna di caccia, ma anche quella è ferma da molto tempo. Mi regolo col sole, oppure quando è nuvolo, col volo delle cornacchie o con altri segni. Vorrei sapere che fine ha fatto il tempo esatto degli orologi, ora che non esistono più esseri umani. Ogni tanto mi torna in mente quanta importanza avesse una volta non arrivare nemmeno con 5 minuti di ritardo. Conoscevo molte persone le quali sembravano considerare il loro orologio come un piccolo idolo e io del resto lo trovavo assolutamente sensato. Vivendo nella schiavitù, è bene attenersi alle prescrizioni e non indisporre il padrone. Il tempo, quel tempo artificiale degli uomini sminuzzato dal ticchettio degli orologi, non l'ho servito volentieri e questo mi ha spesso messo in difficoltà. Non ho mai amato gli orologi e dopo un po' tutti quelli che possedevo si rompevano oppure sparivano misteriosamente. Ma il metodo col quale distruggevo sistematicamente gli orologi lo celavo perfino a me stessa. Oggi, naturalmente, so come tutto ciò sia accaduto. Ho tanto tempo per riflettere e poco a poco riuscirò a scoprire tutti i miei sotterfugi. Me lo posso permettere. È un fatto privo di conseguenze per me. Anche se mi venisse improvvisamente offerta la più sensazionale delle rivelazioni, per me non avrebbe alcun significato. Dovrei comunque pulire la stalla 2 volte al giorno, spaccare la legna e trascinare il fieno su per la gola. La mia testa è libera, può sbizzarrirsi come meglio le pare. È unicamente la ragione che non deve abbandonarla, la ragione che le serve per tenere in vita me e gli animali. Lassù nella capanna, sul tavolo di cucina, c'erano 2 giornali dell'11 aprile, una schedina del Totocalcio compilata, un mezzo pacchetto di sigarette dozzinali, fiammiferi, una spoletta di filo, 6 bottoni da pantalone e 2 aghi. Le ultime tracce lasciate dal guardacaccia nel bosco. In fondo avrei potuto bruciare queste sue povere cose in un gran falò. Il guardacaccia era un brav'uomo, onesto e per bene, e fino alla fine dei tempi non esisterà più un suo simile. Gli avevo sempre prestato troppo poca attenzione. Era un uomo asciutto, di mezza età, glabro e dall'aspetto corrucciato, con una carnagione ed un pallore innaturale per un cacciatore. Il tratto più vistoso erano i suoi occhi chiarissimi e particolarmente penetranti, d'un azzurro che tendeva al verde, di cui quest'uomo modesto andava molto fiero. Non si serviva mai del cannocchiale, se non con un sorriso sprezzante. Questo è tutto quanto so del guardacaccia, oltre al fatto che era molto coscienzioso e che gli piaceva masticare prugne secche, e poi che aveva la mano felice con i cani. Nei primi tempi ogni tanto pensavo a lui. Ugo avrebbe potuto benissimo portarselo dietro al suo arrivo. In quel caso avrei forse avuto una vita più facile durante questi ultimi anni, per quanto adesso non ne sia poi tanto sicura. Chissà come la prigionia avrebbe trasformato quest'uomo insignificante. In ogni caso era fisicamente più robusto di me e sarei dovuta dipendere da lui. Probabilmente oggi se ne starebbe nella capanna a poltrire, mandando me al lavoro. La possibilità di scrollarsi di dosso la fatica deve essere una grande tentazione per qualsiasi uomo. E perché mai un uomo che non deve più temere alcuna critica dovrebbe continuare a lavorare? No, no, è molto meglio che sia da sola. Del resto non mi gioverebbe avere un compagno più debole. Lo ridurrei a un'ombra, avrei cura di lui al punto da farlo morire. Sono fatta così e in questo nemmeno il bosco ha cambiato nulla. Forse solo gli animali riescono a sopportarmi. Se anche Ugo e Luise fossero rimasti nel bosco nel corso del tempo, si sarebbero certamente verificati innumerevoli attriti. Non vedo cosa avrebbe potuto rendere felice la nostra vita in comune. Non ha senso pensarci. Luise, Ugo e il guardacaccia non esistono più. E in fondo non li rimpiango. Non sono più quella di 2 anni fa. Se oggi desiderassi la presenza di un essere umano, dovrebbe essere una vecchia donna, intelligente, spiritosa, con la quale poter ridere ogni tanto. Perché il ridere continua a mancarmi molto. Ma certamente morirebbe prima di me, lasciandomi di nuovo sola. Sarebbe peggio che non averla mai conosciuta. Le risate avrebbero un prezzo troppo alto. E inoltre dovrei ricordare anche quella donna. Sarebbe troppo per me. Già ora non sono che una pelle sottile sopra una montagna di ricordi. Sono stanca. Cosa ne sarebbe di me se questa pelle si lacerasse? Non porterò mai a termine la mia cronaca se mi lascio trascinare ad annotare tutti i pensieri che mi frullano per la testa. Ora comunque mi è passata la voglia di riferire altro sulla mia escursione. Non ricordo nemmeno come si svolse la discesa verso casa. In ogni modo tornai con lo zaino imbottito, mi occupai di Bella e andai subito a letto. Il giorno seguente trovo annotato sul mio calendario iniziò il mal di denti. Fu un dolore così atroce che non mi stupisco dell'annotazione. Mai prima d'allora e mai dopo un dente mi ha fatto soffrire tanto. Non avevo mai pensato a quel dente, forse perché sapevo benissimo che non era in buono stato. Era stato trapanato e provvisto di un'otturazione. Il dentista mi aveva raccomandato di tornare assolutamente 3 giorni dopo. I 3 giorni erano diventati 3 mesi. Consumai un'enorme quantità degli analgesici lasciati da Ugo e il 3° giorno ero talmente intontita che riuscii a sbrigare il lavoro necessario solo con grandissima fatica. A volte credevo di impazzire. Era come se il dente avesse buttato radici lunghe e sottili che ora mi perforavano il cervello. Il 4° giorno gli analgesici cessarono di fare effetto e trascorsi il tempo seduta al tavolo, la testa appoggiata sulle braccia, ad ascoltare quel turbine violento nel mio cervello. Lince sedeva sconsolato accanto a me sulla panca, ma non fu in grado di rivolgergli una buona parola. Rimasi seduta al tavolo tutta la notte. A letto il dolore diventava ancora più insopportabile. Il 5° giorno si formò un ascesso e in un attacco d'ira e di disperazione incisi la mascella col rasoio di Ugo. Il dolore del taglio fu quasi piacevole, poiché per un attimo cancellò quell'altro tormento. Dall'incisione colò una quantità di pus. A quel punto ero talmente deperita che incominciai a gemere e a gridare, credendo di svenire. Ma non svenni. Non ne sono capace, non sono mai svenuta in vita mia. Infine, ancora cosciente, mi alzai tutta tremante. Lavai la faccia per pulirla dal sangue, dal pus e dalle lacrime e mi distesi sul letto. Le ore successive furono di pura felicità. Scivolai nel sonno con la porta di casa aperta e dormii fino a sera, quando Lince mi svegliò. Allora mi alzai, ancora barcollante, condussi Bella nella stalla per mungerla e foraggiarla, tutto molto lentamente, facendo grande attenzione perché i movimenti bruschi mi facevano vacillare. Più tardi, dopo aver bevuto un po' di latte caldo e aver dato da mangiare a Lince, ricaddi subito nel sonno, sempre seduta al tavolo. Da allora, di tanto in tanto, la fistola si riforma, si apre e poi si rimargina, ma non mi causa più dolore. Non so per quanto tempo possa continuare una situazione del genere. Per me sarebbe vitale avere dei denti finti. Invece ho ancora 26 dei miei denti in bocca, tra l'altro anche quelli che avrei dovuto farmi estrarre da tempo e che per vanità ho per di più fatto incapsulare. Talvolta mi sveglio verso le 3 del mattino e al pensiero di questi 26 denti sprofondo in una fredda disperazione. Sono incastonati nelle mie mascelle come bombe a orologeria. E non credo che sarò mai in grado di estrarmi un dente da sola. Se verranno i dolori, mi toccherà sopportarli. Sarebbe da ridere se dopo anni di inaudite fatiche nel bosco dovessi infine morire per un'infezione ai denti. Da questa faccenda dei denti mi ripresi solo lentamente. Credo per colpa dei tanti medicinali che avevo inghiottito. Per il mio primo capriolo consumai troppe cartucce perché mi tremavano le mani. Non mangiavo quasi, ma bevevo molto latte e credo fu proprio il latte a guarirmi infine dall'intossicazione. Il 10 giugno andai al campo delle patate. Le foglie verdi erano già alte e quasi tutti i tuberi avevano germinato. Ma anche la gramigna era cresciuta in altezza. Avendo piovuto il giorno prima, mi accinsi subito a diserbare il campo. Mi resi anche conto di doverlo proteggere. In realtà non credevo che la selvaggina avrebbe mangiato le foglie delle patate, quando tutto intorno poteva cibarsi di erbe più delicate. Poteva però accadere che qualche animale intaccasse quei tuberi preziosi. Trascorsi dunque i giorni seguenti a picchettare il campo con rami robusti, intrecciandoli con lunghi giunchi bruni. Non fu un lavoro particolarmente faticoso, tuttavia richiedeva una certa abilità che dovevo ancora acquisire. Alla fine di questo lavoro, il mio campo aveva l'aspetto di una piccola fortezza in mezzo al bosco. Era protetto da tutti i lati. Solo contro i topi non potevo fare granché. Certo, avrei potuto versare del petrolio nelle loro tane, ma era uno spreco che non mi potevo permettere. Inoltre, chissà, le patate avrebbero potuto prendere sapore di petrolio. Naturalmente, non ne ho la più pallida idea e per ragioni evidenti non posso permettermi molti esperimenti. Dei fagioli accanto alla stalla solo la metà aveva germogliato, forse erano troppo vecchi. Anche qui, se il tempo restava favorevole, potevo sperare in un piccolo raccolto. In fondo, aver piantato quei fagioli era un colpo di fortuna. L'avevo fatto più per gioco che per preveggenza. Solo più tardi mi resi conto di quanto per me fossero importanti proprio i fagioli. Dovevano sostituire il pane. Oggi ne posseggo un bel campo. Recintai anche l'orto dei fagioli perché potevo immaginare che Bella, eludendo la mia sorveglianza, non ne avrebbe disdegnato il fogliame. Quando il mio lavoro mi lasciava un po' di tempo libero, per esempio nelle giornate di pioggia, cadevo subito in uno stato d'ansia e di preoccupazione. Bella dava sempre la stessa quantità di latte e si era fatta decisamente più tonda, ma continuavo a ignorare se aspettasse un vitello. E si aspettava davvero un vitello. Passavo ore intere seduta al tavolo, la testa appoggiata tra le mani, a riflettere su Bella. Mi intendevo così poco di mucche. E se non fossi stata capace di aiutare quel vitello a venire alla luce? Se Bella non fosse sopravvissuta al parto? Se lei e il vitello fossero morti entrambi? Se Bella avesse brucato dell'erba velenosa sul prato? Si fosse spezzata una zampa o fosse stata morsa da una vipera? Ricordavo vagamente di aver sentito, durante le mie vacanze estive in campagna, storie terribili sui bovini. Esisteva una malattia per cui bisognava piantare un coltello in un punto preciso del ventre della mucca. Questo punto non lo conoscevo e qualora lo avessi conosciuto non sarei mai stata capace di conficcare un coltello nel ventre di Bella. Piuttosto le avrei sparato. Forse nel prato c'erano anche dei chiodi o delle schegge di vetro. Luise era sempre stata negligente in quel senso. I chiodi e le schegge avrebbero potuto lacerare uno degli innumerevoli stomaci dell'animale. Non sapevo nemmeno quanti stomaci possieda una mucca. Queste cose si studiano per gli esami e poi si dimenticano. E non era solo Bella a trovarsi costantemente in pericolo, sebbene fosse la mia preoccupazione maggiore. Lince poteva inciampare in una vecchia trappola e le vipere potevano mordere anche lui. Non so perché a quel tempo temessi tanto le vipere. Nei 2 anni e mezzo trascorsi qui, non ho mai visto un serpente, nemmeno nella radura. Preferivo non pensare a cosa poteva succedere alla mia gatta. Non ero in grado di proteggere nemmeno lei, perché di notte scappava nel bosco, sottraendosi completamente alla mia vigilanza. Poteva cadere in preda al gufo o alla volpe, o finire in una trappola ancora più facilmente di lince. Per quanto mi sforzassi di sfuggire a queste visioni, non ci riuscivo mai del tutto. E non credo avessero un aspetto delirante, perché era infinitamente meno probabile riuscire a tenere in vita gli animali in mezzo al bosco che vederli morire. Per quanto ricordo, ho sempre sofferto di simili paure e continuerò a soffrirne fin quando una qualsiasi creatura mi sarà affidata. A volte, già prima che esistesse la parete, desideravo morire per poter finalmente scrollarmi di dosso questo fardello. Di questo peso opprimente ho sempre taciuto. Un uomo non mi avrebbe capita e le donne si trovavano nella mia stessa situazione. E così preferivamo chiacchierare di vestiti, delle amiche, di teatro, la segreta ansia divorante negli occhi. Ognuna di noi sapeva e perciò non ne parlavamo mai. Era il prezzo che si pagava per la capacità di amare. Più tardi l'ho raccontato al lince, solo così, tanto per non disimparare a parlare. Conosceva un unico rimedio a qualsiasi male, una bella corsettina nel bosco. La gatta, è vero, mi ascoltava attentamente, ma solo se non mostro la minima emozione. Disapprova anche il più lieve accenno di isteria. E se mi lascio andare se ne va semplicemente. Bella ha l'abitudine di leccarmi la faccia qualsiasi cosa le dica. Sebbene sia consolante, non è una soluzione. Una soluzione, difatti, non esiste. Lo sa perfino la mia mucca. Solo io continuo a lottare contro la sofferenza. A fine giugno la gatta si trasformò in modo assai sospetto. Diventò grassa e di cattivo umore. Talvolta se ne stava accovacciata per ore nello stesso punto, in una posizione sgraziata. Quasi stesse covando o ascoltando qualcosa dentro se stessa. Se il lince le si accostava, gli allungava una rude zampata sulla testa e con me alternava una bruschezza eccessiva a un'insolita tenerezza. Dato che mangiava e non era malata, il suo stato mi parve assolutamente inequivocabile. Mentre avevo sempre pensato solo al vitello, nella gatta erano cresciuti dei minuscoli gattini. Le diedi molto latte e infatti aveva più sete di prima. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.